Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E dunque una buona giornata, gentili ascoltatori, ultima puntata di Nessun luogo è lontano. Un buongiorno anche da parte di Valeria Coffaro, un buongiorno anche da parte di Fabio Cantadori, che è di là dal vetro alla parte tecnica. Per interagire con noi vi ricordo le coordinate SMS e mail. Allora, telefonino 349-238-6666 se avete domande, suggestioni, commenti condensati in 160 caratteri. Ci trovate la pagina Facebook Nessun luogo è lontano, oppure potete scriverci una mail a nessunluogo@radio24.it. Ma siccome Nessun luogo è lontano, io quest'oggi vi porto in Sudan. Il Sudan, il più grande paese africano, sono tanti i tasselli che compongono il delicato e complicato mosaico che quest'oggi tenteremo di raccontarvi. Facciamo chiarezza, cerchiamo di andare con ordine. Innanzitutto, una notizia fresca di attualità, ve ne abbiamo dato conto nelle scorse puntate. El Bashir, il premier sudanese, ha deciso entro il 2020 il Sudan avrà una sua centrale nucleare. Secondo punto, l'indipendenza del Sud Sudan. È previsto un referendum nel gennaio del 2011 che dovrebbe sancire l'indipendenza della parte sud meridionale del paese. Terzo punto, le ricchezze. Il Sudan è un paese ricco, ci sono petrolio, ci sono minerali concentrati, guarda caso, proprio nella parte meridionale del paese. Terzo punto, sul premier sudanese El Bashir pendono mandati di cattura da parte della Corte internazionale dell'AIA. Sono svariati i capi di imputazione, ce ne sono 5 per crimini contro l'umanità, ce ne sono 2 per crimini di guerra, ce ne sono 3 per genocidio. In tutto ciò vi faccio ascoltare quella che è la dichiarazione del presidente del Malawi un mese fa al consesso dell'Unione Africana. Ascoltiamo insieme. The issuance of a warrant of arrest for His Excellency al-Bashir, a duly elected president of the Sudan, is a violation of the principles of sovereignty. But to subject to a sovereign head of state to a warrant of arrest is undermining African solidarity and African peace and security that we fought for so many years. Così Bingu wa Mutharika si è espresso il 28 luglio alla conferenza dell'Unione Africana e ha detto: il mandato di cattura per Omar al-Bashir, presidente eletto del Sudan, è una violazione del principio di sovranità. L'emissione di un ordine di arresto verso il capo di uno Stato sovrano sta minando la solidarietà africana e mettendo a rischio la pace e la sicurezza dell'Africa per la quale abbiamo lottato per così tanti anni. Allora, l'avete capito? Polveriera Sudan. È un paese difficilissimo, molto complesso, non è univoco come al solito, e questo insomma è il quadro iniziale del tormentato paese che oggi noi racconteremo a Nessun luogo è lontano. Stiamo tentando di scattare una fotografia di quello che è il paese africano e quindi mi soccorre in aiuto chi fa il fotografo. Marco Vacca, fotoreporter, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Giampaolo, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Marco Vacca, fotoreporter, nonché vicepresidente dell'Associazione Fotografia e Informazione, che ha frequentato negli ultimi 10 anni assiduamente il Sudan. A te chiedo immediatamente una fotografia di questo paese. Una fotografia ben complicata, perché il Sudan è tante cose e tutte notevolmente diverse l'una dall'altra, con problematiche diverse. Intanto il Sudan, secondo me, è fondamentalmente Omar al-Bashir e il suo potere e Khartoum, che sta diventando una gigantesca megalopoli. Il Sudan è il petrolio che per la maggior parte i cinesi tirano fuori nell'ovest e nelle zone a confine con il Sud Sudan. Il Sudan è il Sud Sudan, con le sue premesse di autonomia e con una diversità di popolazione notevole e di cultura. E il Sudan è ovviamente anche il Darfur, che è una delle regioni più reiette e più lontane dal centro della capitale, fatta la sommatoria di tutte queste cose, si può evincere quanto complessa sia la situazione in Sudan e soprattutto quanto le poste in gioco siano tante, le risorse in primis, la ricerca di autonomia da parte del Sud Sudan, che non credo francamente avrà luogo. Ma ci arriveremo Marco, okay, volevo farti fare un salto indietro nel tempo, perché tu la prima volta sei entrato in Sudan nel 1999, hai fatto un lavoro sulla carestia, hai vinto anche un WordPress Photo. Il tuo primo impatto quale fu? Il mio primo impatto è stato quello di una disponibilità di mezzi gigantesca da parte delle Nazioni Unite per salvare una situazione nella quale le popolazioni soffrivano, e soffrivano non perché mancasse da raccogliere ciò che poi sfamava la popolazione, semplicemente perché i Dinka, i Nuer, gli abitanti del Sud Sudan erano costretti a spostarsi e erano in condizione di non poter coltivare, insomma. La desolazione da una parte, lo spostamento di decine di migliaia di persone che facevano anche 40-50 chilometri per venire a prendere il cibo che veniva distribuito dalle Nazioni Unite, il 60% del quale serviva poi per rifornire la SPLA, perché poi questo era, come dire, l'accordo neanche troppo segreto per poter permettere alle organizzazioni umanitarie di essere sul campo. Scusami Marco, precisiamo, l'SPLA è il Sudan People Liberation Army. Liberation Army, scusami, sì, certamente. Che è un gruppo armato del sud del Sudan. Il cui capo adesso è il presidente del Sudan, movimento politico, il cui capo è appunto Salva Kiir, che anche, non dimentichiamocelo, anche vicepresidente del Sudan. Quindi c'era un contrasto assolutamente incredibile, trasvolando dal Kenya nel cuore della crisi, che era il Bahr el Ghazal in quel periodo, tu vedevi una riserva d'acqua gigantesca. Dicono tutti: il Sudan potrebbe essere il granaio di tutta l'Africa. I problemi ancora sono tutti sul terreno, francamente. Io sono tornato l'anno scorso, sono stato a Juba, che è diventata la capitale del Sudan, sono stato a Bor e francamente non ho visto grandi miglioramenti. Quindi 10 anni di, come dire, di storia nel frattempo, di carestie, di siccità, di scontri, di rapacificazioni fra i vari gruppi armati, ma poi ci arriveremo. Insomma, alla fine tutto è cambiato, nulla è cambiato. Allora facciamo un po' di ordine. Ci aiuta in questo la professoressa Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzioni dell'Africa alla Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. Il Sudan, il cui nome deriva dalla definizione Bilad al Sudan, cioè il paese dei neri, e quindi già dal nome del paese si può identificare un'area che ha avuto e ha tutt'oggi una storia estremamente travagliata, è il paese più grande dell'Africa, con 9 stati africani, e possiede anche 800 chilometri di costa sul Mar Rosso. La sua collocazione geografico-politica oggi lo identifica come un'area altamente strategica, non solo all'interno delle dinamiche del continente africano, ma anche entro le relazioni internazionali a livello globale. Questo paese è sempre stato legato all'Egitto, con il quale era legato dal condominio anglo-egiziano con l'amministrazione britannica, e consegue l'indipendenza il 1 gennaio del 1956, a metà degli anni 50, sulla scia delle indipendenze concesse dalle potenze coloniali dopo la Seconda Guerra Mondiale, e subito emergono delle problematiche, soprattutto a livello di confini politici, che sono problematiche diffuse in tutto il continente africano, ma qui noi abbiamo immediatamente una Costituzione che privilegia il potere militare e un susseguirsi di colpi di Stato più o meno cruenti, che vedono salire al potere ancora alla fine degli anni 80 e poi certamente all'inizio degli anni 90 del XX secolo, di questo militare che è tutt'oggi presidente del Sudan, che è il colonnello Omar al-Bashir, che instaura uno stato totalitario che si identifica con la legge della Sharia, che però viene applicata in maniera estremamente personalistica e personalizzata, e che viene addirittura identificato all'inizio degli anni 90 dall'amministrazione americana come uno stato canaglia, no? Ci ricordiamo che faceva parte di questo elenco di stati e quindi isolato a livello internazionale. Allora Marco, la professoressa Nicolini accennava al, come dire, al potere militare che caratterizza il Sudan. E quando tu l'hai attraversato, quante armi hai visto? Quanto è militarizzato? Quanti gruppi ribelli? Quanti armi girano? Quando l'ho girato nel 98, ho visto francamente poche armi. Sì. Ho visto poche armi perché il mio mandato era quello di raccontare la carestia. Quello che ho notato era un controllo sul territorio assolutamente capillare, e l'ho notato anche 10 anni dopo, cioè 5 anni dopo in Darfur. Sì. Il paradosso della situazione è che io mi ricordo questo ritornello, eravamo in Bahr el Ghazal, no? C'erano tutti personaggi, gente delle organizzazioni umanitarie, bambini che dicevano: arriverà il treno, non capivamo cosa fosse questo treno. Il treno era il treno che riforniva le guarnigioni partendo da Sudan, da Khartoum, e avanti al treno c'erano i predoni a cavallo, sì, che in realtà erano coloro che poi rifornivano il treno. Il treno partivano vuoto, razziando, ed andando avanti, sì, si portava. Ecco, questo era il meccanismo militare in generale, sì, che notavamo, e che poi è stato replicato fondamentalmente anche in Darfur. Sì. Tu hai accennato a questi predoni a cavallo, che sono i famosi Janjaweed. Questi demoni, sì, a cavallo, tu li hai incontrati? Grazie a Dio no. Anche perché dice, non sarei qua a raccontare se, no? No, non è tanto quello, perché in realtà la violenza del Janjaweed è sempre rivolta verso le popolazioni con una politica specifica, un mandato come dire, che arriva direttamente da Khartoum. Il, sì, Tribunale Penale Internazionale ha certificato le responsabilità. No, probabilmente se l'avessi incontrato non avrei potuto fare il mio mestiere. Cioè, ti avrebbero ripulito a dovere di tutta l'attrezzatura. Ripulito, esattamente, per cui insomma girare per il Darfur non era una cosa tanto semplice, sì, e andava fatta con sì, un certo garbo, con una certa sicurezza. Giusto per dovere di cronaca, ricordo che questi famigerati demoni a cavallo, che sono una delle milizie sicuramente più feroci e più sanguinarie dell'Africa, sono fondamentalmente uno strumento, una longa manus di Khartoum sulla popolazione africana. C'è un'elite araba bianca, tra virgolette, che guida questo paese e che comunque discrimina da sempre quella che è la popolazione africana. Nessun luogo è lontano. We want our liberty. We've been living. For me, I'm born in a war. Up to these times, I don't know anything about freedom. Io non so niente della libertà. Questa è la voce di Lazarus O'Kane, un giovane speaker di Radio Voice of the People di Juba, siamo in Sud Sudan, che cosa fa? Invita la gente ad andare a votare il gennaio prossimo per l'indipendenza, appunto, della parte meridionale del Sudan. L'indipendenza sarà reale o sarà quasi formale? Abbiamo chiesto un parere di nuovo alla professoressa Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzioni dell'Africa alla Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. Ci sarà un'area certamente economicamente ricca che potrà essere virtualmente staccata dalla capitale e anche forse tentare di riuscire a mettere insieme una forza militare di parvenza autonoma, ma non credo che Bashir consentirà davvero un'autonomia reale. Credo che sarà una specie di accordo tra simpatici personaggi con una facciata televisiva, diciamo, per l'esterno di divisione, ma una realtà molto diversa, quindi non sarà una reale successione, secondo me. E vedremo allora che cosa accadrà al gennaio dell'anno prossimo. Intanto do il mio benvenuto, il mio buongiorno a Antonella Napoli, giornalista, presidente di Italians for Darfur e autrice del libro Volti e colori del Darfur. Antonella, buongiorno. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo partiti, arriveremo al Darfur, Antonella, siamo partiti dal Sud Sudan. Perché? Perché lì, insomma, si potrebbe creare un nuovo soggetto anche dal punto di vista politico, geopolitico. Io ricordo in primis, ce ne siamo occupati in una delle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, ebbene, se il Sud Sudan raggiungesse l'autonomia e l'indipendenza, ci sarebbe un nuovo soggetto che andrebbe ad aggiungersi in quella che è la contesa sul bacino del Nilo, quindi un nuovo soggetto che andrà a campare nuovi diritti su quelli che sono appunto i diritti dell'acqua. Ma allora, se si crea una realtà nuova lì, che cosa andrà ad accadere, ancora la professoressa Nicolini? Quindi io suppongo che se le elezioni, come è molto probabile dagli analisti che avvenga, cioè che davvero si abbia un altro Stato e quindi una realtà politica in più, diversa, confinante, attenzione, con dei paesi in forte destabilizzazione politica come l'area del Corno d'Africa, quindi ci saranno certamente degli sconquassi a livello geopolitico, geostrategico, che si rifletteranno, secondo me, più sull'esterno, cioè sugli stati contigui, che realmente sull'interno. Dopodiché, certamente, ogni grande donor, ogni paese a livello internazionale che ha interesse a avere un paese stabile sul piano della sicurezza degli investimenti finanziari, certamente avrà un ruolo dove secondo me la Cina avrà una parte di partner privilegiato proprio per questa politica, per questi canali aperti che è sempre stata in grado di mantenere e che mantiene tutt'oggi e che verosimilmente sfrutterà moltissimo nel futuro. Nessuno vuole lasciar cadere il Sudan in un'altra guerra civile, nessuno ha interesse a che i pozzi di petrolio e le piattaforme offshore finiscano di essere aperte al commercio internazionale, quindi non c'è interesse comune, non c'è interesse globale affinché la situazione si modifichi a livello così radicale, così sostanziale. Per quanto riguarda il Darfur non ci sono purtroppo molte speranze perché, ripeto, c'è questo interesse a avere continui aiuti che temo non sempre vengano canalizzati davvero nelle aree di reale necessità e soprattutto continuare a attrarre l'attenzione del mondo su quest'area. Perché questo è, sappiamo, no? In Africa l'importante è avere una storia da raccontare, no? E la storia da raccontare sul Darfur è una storia fatta di centinaia, di migliaia di sfollati, di morti, di carestia. Antonella Napoli, è una storia che tu conosci piuttosto bene. Beh sì, io sono stata più volte in Sudan, in particolare in Darfur, ho toccato con mano la realtà dei campi profughi, ho parlato con le donne che hanno subito le violenze delle milizie arabe che poi sono finite con Bashir sotto inchiesta della Corte Penale Internazionale, ho parlato con la gente che dopo l'espulsione di 13 organizzazioni non governative ritenute responsabili della delazione nei confronti del presidente sudanese, ora vivono in campi con oltre 100.000 persone dove ci sono solo due ambulatori sanitari dove l'assistenza è garantita solo fino alle 17, quindi qualsiasi cosa succeda dopo non c'è possibilità di essere curati, di essere assistiti. La situazione umanitaria è al tracollo e non a caso l'Unione Europea recentemente ha garantito un finanziamento di 46 milioni di euro, ma non può bastare, anche perché non dimentichiamo che c'è una missione di pace dispiegata lì in Darfur che però non riesce a garantire protezione alla popolazione, tantomeno a se stessa. Che è una missione ONU, Antonella? Sì. Quindi sono i caschi blu dell'ONU? È una missione congiunta ONU, Nazioni Unite e Unione Africana. Circa 26.000 uomini che per il momento però non sono dispiegati nella loro totalità, siamo ancora all'80%, poco più dell'80% del potenziale di questa missione, perché comunque c'è stato grande ostruzionismo da parte del governo sudanese e anche dalla comunità internazionale, non c'è stato poi questo gran supporto a questa missione, come se non si volesse renderla efficace davvero. Ecco, allora questo, diciamo, andiamo a toccare un tasto dolente, perché la professoressa Nicolini lancia un allarme, cioè lei si chiede perché questa situazione del Darfur viene così cristallizzata, a chi fa comodo questa emergenza Darfur? Se ne parla poco, ma è anche nell'interesse interno che questa situazione umanitaria non si fermi, non diminuisca, perché automaticamente diminuirebbe l'attenzione del mondo. L'attenzione non solo politica, ci sono moltissimi siti, per esempio, che monitorizzano 24 ore su 24 molti villaggi del Darfur ancora oggi, che si possono seguire online. Quindi l'attenzione del mondo è ancora oggi su Darfur e è nell'interesse anche di politici e forse probabilmente soprattutto di al-Bashir che l'attenzione non venga distolta dal Darfur proprio per questa serie di aiuti finanziari e proprio per un'altra problematica di cui si parla poco, che sono le cattivissime oggi relazioni tra il Sudan e il Chad, perché noi abbiamo in quest'area il fenomeno per esempio degli IDPs, che sono sì. Internet Displaced Persons, cioè a oggi credo che siano certamente quasi 3 milioni di persone che vivono in campi che non hanno più un'identità, non hanno più un confine politico, non sono più nulla e nello stesso tempo non hanno più la possibilità di ritornare nelle loro terre d'origine, nei loro villaggi, e nessuno desidera che questo avvenga per motivi, insomma, diciamo abbastanza ovvi, e vengono continuamente aiutati dagli aiuti internazionali. E qui potremmo addirittura citare quella serie di studi, quel volume di quell'autrice, si chiama Dambisa Moyo, ha scritto questo libro che si chiama Dead Aid, e sostiene che gli aiuti per l'Africa non solo sono inutili ma dannosi. Allora, insomma, aiuti non solo inutili ma dannosi, questa è la provocazione della nostra docente, la professoressa Nicolini. Quanto ti tocca, quanto ti fa male una visione così cinica, Antonella Napoli? L'analisi della professoressa è sotto vari aspetti lucida, corretta, perché l'Africa purtroppo spesso viene assistita e non aiutata, sì. E questo è un grande limite. È meglio un pesce oggi o far pescare, imparare e insegnare a pescare a un, sì, africano. Sì, l'antica diatriba. Un anonimo. Sì, quindi è giusta la sua riflessione. Sì. Ma è anche vero che non aiutare questa popolazione significa condannarla a un'esistenza al di là della sopravvivenza. Perché, sì, ripeto, io ho toccato con mano quella che è la realtà di questi campi profughi, che non hanno nulla di umanità, perché comunque sopravvivono, ma a parte ricevere un pugno di riso e quel minimo di assistenza, non fanno altro che languire, e questa è una cosa che non è accettabile per il mondo moderno occidentale. Ma il punto importante è un altro, perché la comunità internazionale non si sta impegnando nel modo giusto e convinto, perché come dicevo prima sarebbe fondamentale garantire l'efficacia della missione di peacekeeping che è in corso, sì, in Darfur. Sì. Tra l'altro diciamo che, come Antonella, la storia delle missioni di caschi blu in Africa non è esattamente una storia brillantissima e di grandi successi, ecco. Pensare al Congo, alla Ruanda, esatto, e alle storie più recenti. Però tu dici, insomma, un po' una sferzata, un po' tirare un po' le redini, cercare di controllare meglio queste migliaia di uomini che dovrebbero essere dislocati sul terreno, potrebbe aiutare. Anche perché, io l'ho citato inizio trasmissione, Ci sono svariati gruppi ribelli, ma poi chiamarli ribelli è sempre, insomma, va preso con le molle, perché ci si chiede, allora, l'SLM, che è una milizia che nasce per difendere la popolazione darfuriana dalle incursioni dei Janjaweed mandati da Bashir, sono ribelli o sono, come dire, milizie partigiane? Vi faccio però sentire la drammatica testimonianza di un ragazzo che ho incontrato in un villaggio della Repubblica Centrafricana che era circondato da un altro gruppo ribelle, il Lord Resistance Army di Joseph Kony, che è uno dei gruppi più feroci di tutta l'Africa e che è armato, pare, da Bashir e che scorrazza veloce, feroce e armato anche nel Sud Sudan. Sono stato rapito dall'LRA qui da Obo e portato sulla strada che va verso il Sudan, a Pasibili. Dopo che quella notte mi hanno prelevato, abbiamo marciato per una settimana attorno a Obo. Abbiamo aspettato una settimana per fare poi un altro attacco e rapire altre persone, sempre qui nel villaggio. La base di Pasibili era abbastanza vicino a Obo. Poi, dopo un mese, siamo andati nella base di Nabanga, in Congo. Ma alcune settimane dopo sono arrivati gli elicotteri ugandesi, che hanno bombardato la base. Dopo il bombardamento, i ribelli si sono sparpagliati e ogni gruppo è andato nella foresta. E ogni gruppo aveva ricevuto precisi ordini: saccheggiare e uccidere. E tu devi obbedire. Se tu esci da un villaggio senza aver ucciso, sarai punito, mi dicevano. Non puoi uscire senza uccidere. E io ho commesso troppi crimini, troppi. Io ho ucciso. Oramai l'ho fatto. Gli errori li ho compiuti e non posso negarlo. Non era facile attaccare i villaggi. La popolazione reagiva e si difendeva. Quando mi sono liberato ero in Congo e dopo l'ennesimo bombardamento degli elicotteri sono riuscito a fuggire. Poi ho incontrato le truppe delle Nazioni Unite e mi sono arreso a loro. Per 4 mesi sono rimasto lì. Poi mi hanno trasferito a Bangui e poi sono tornato qui, a Obo. Quindi la presenza di numerosi gruppi ribelli è un elemento destabilizzante per la regione tutta intera. Bisognerà capire se dal gennaio 2011 Bashir permetterà questo referendum e permetterà poi, insomma, al Sud Sudan di acquisire una certa autonomia. Nessun luogo è lontano. Oggi, nell'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano, polveriera Sudan, a pochi mesi dal referendum gennaio 2011 che dovrebbe sancire l'indipendenza del sud del paese, a pochi giorni dalla dichiarazione di El Bashir che ha detto anche noi vogliamo una centrale nucleare, a pochi giorni dalle nuove incursioni dei ribelli dell'LRA di Joseph Kony proprio nel sud del Sudan. Ho detto a inizio trasmissione che a Khartoum esiste un'elite araba che governa il paese. Un SMS mi sollecita in questo, ha digitato il 349-238-6666. Cos'è questa elite araba? Quali paesi esteri hanno più influenza su Khartoum? L'Arabia? L'Egitto che ruolo gioca? Beh, sicuramente l'Egitto gioca un ruolo importante, sicuramente la Libia di Gheddafi, anche all'ultimo vertice che citavo inizio trasmissione, ha difeso a spada tratta El Bashir. Ed è un'elite bianca, tra virgolette, che comunque da sempre discrimina quella che è la parte subsahariana, la parte africana del paese. Antonella, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo tema. Il contrasto fra etnie arabe e animiste o cristiane come sul Sudan sono all'origine di tutti i conflitti e i disastri di questo paese, che ricordiamolo è il più grande paese africano. Da solo il Sudan confina con altri 8 paesi africani e anche oggi vediamo questa grande tensione in vista proprio dell'indipendenza di quella che ormai sembra una scontata indipendenza del Sud Sudan e che vede contrapporsi etnie di varie estrazioni che continuano a confrontarsi in scontri fratricidi sanguinari che fanno centinaia di vittime ed è per questo che io ritengo fondamentale che ci sia l'attenzione della comunità internazionale in questo momento sul Sudan. Proprio per questo come associazione abbiamo appoggiato insieme ad organizzazioni internazionali come Human Rights Watch, Amnesty International, la condivisione di una campagna che è Sudan 365, che è partita il 9 gennaio scorso e che per tutto l'anno, fino al 9 gennaio 2011, data del referendum che dovrebbe sancire l'indipendenza del Sud dal Nord, chiediamo ai garanti del CPA, che è l'accordo di pace che è stato firmato a Nairobi nel 2005, che prevedeva tra i punti fondamentali di questo accordo proprio l'espletamento di questo referendum, di fare in modo che questo sia tutelato, che questo referendum si faccia, cosa che invece sembra oggi a rischio, perché c'è un tentativo di deragliamento del processo elettorale che dovrebbe portare a questo referendum. Insomma, un referendum sarebbe gravissimo, si rischia di tornare a una guerra civile, perché ricordiamo che il Sudan ha vissuto una guerra ultraventennale che ha fatto 4 milioni e oltre di morti, quindi il rischio è altissimo e la comunità internazionale e i garanti del CPE devono intervenire subito, perché domani è troppo tardi. Grazie Antonella. Marco, non ti ho dimenticato. Quanto è difficile raccontare la situazione di un paese lontano come il Sudan, dove il rischio retorica è sempre facilissimo, perché è facile a un certo punto, no, lasciarsi prendere dal dolore, dall'iconografia classica poi che si trova. Quanto è difficile rimanere oggettivi, fare il giornalista, fare il fotogiornalista in un disastro come questo e cercare di far passare questo messaggio alla gente senza che continuino a mangiare, si turino il naso o si voltino dall'altra parte? Guarda, l'anno scorso mi è stato chiesto di raccontare il Sud Sudan che va verso l'indipendenza, no? Che rinasce, che ricresce. Ci ho provato. Il problema è che ci sono cose che le fotografie non possono raccontare. La cosa che più mi ha impressionato a Bor, che è una città molto importante, a 3 ore di viaggio da Giuba, è che l'imprenditoria per far rinascere una nazione era assolutamente inesistente se non veicolata da kenioti, etiopi, ugandesi, dal fatto che se volevi costruire una cosa avevi bisogno di andare a comprare il cemento a Kampala. Sì. Perché dobbiamo andare noi a costruire le scuole? Cioè, le competenze per costruire una scuola sono basilari, basiche, i sudanesi non sono stupidi. Ciò nonostante c'era tutto una catena di distribuzione, no? Che era quella che faceva guadagnare. I dinka sono allevatori, ho visto sterminate masse di bufali d'acqua che non vengono impiegati come capitale, perché nella loro terra, nella loro cultura, più mucche hai e più sei potente, più sei importante. Sì, quindi non è un paradosso incredibile, insomma. È un paradosso incredibile, cioè lo usi se devi comprarti, cioè se devi dare in sposa la tua figlia, sì, insomma, no? O le ricevi in cambio al contrario. Allora, queste cose la fotografia non le può raccontare. No, e il Sudan è un paese complessissimo, l'abbiamo detto all'inizio, chissà se il referendum del gennaio 2011, come dire, farà voltare pagina a questo paese. Allora io ringrazio Antonella Napoli di Italians for Darfur per essere stata con noi, grazie, una buona giornata. Grazie Antonella. E ringrazio anche Marco Vacca, ricordo il suo sito, ma lo posteremo sulla nostra pagina Facebook, che è marcovacca.com, se non vado errato. Giustamente. Grazie Marco, grazie per grazie le tue foto e un buon lavoro. Buona giornata. E allora oggi, ultima puntata di Nessun Luogo Lontano, abbiamo tentato così di fotografare questo grande sterminato paese africano che sta vivendo probabilmente una delle pagine fondamentali della sua storia dopo oltre 20 anni di guerra civile. Ma adesso voltiamo pagina e andiamo in Messico. Comando. Andiamo in Messico perché dal Messico, se vi ricordate, il 2 agosto è partito Nessun Luogo Lontano. Qui vogliamo chiudere perché? Perché ce ne darà conto Roberto Darin, corrispondente dall'America Latina del Sole 24 Ore. Due giorni fa i narcos hanno compiuto l'ennesima, violentissima, raccapricciante azione. 72 morti in una fossa comune, erano migranti, tra cui 14 donne. Roberto Darin, buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa è successo? Si sono intersecati i sogni e le aspirazioni dei migranti con la ferocia e la, come dire, la voglia insaziabile, la bulimia di business dei narcotrafficanti? Sì, dunque, il Messico vive una fase storica molto difficile e la crisi dei narcos, provocata dai narcos, è ormai sempre più drammatica. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che il Messico è un paese fallito, il presidente Calderón, messicano, ha replicato che senza la collaborazione degli Stati Uniti non si può risolvere il problema del narcotraffico, perché gran parte della domanda è proprio domanda di droga, arriva dagli Stati Uniti. Questo da un lato. Dall'altro, gli Stati Uniti rimangono un paese che ospita gran parte della migrazione messicana, quindi questo è un altro nodo del problema. E i coyote sono i trafficanti di uomini che fanno passare oltre confine i migranti messicani. Sì. Ora alcuni di loro sono costretti a trasportare droga per poter avere pagarsi anche il viaggio, insomma, di uomini, e quindi non solo, ma viene chiesto poi una quota aggiuntiva sempre più alta di dollari per poter essere accompagnati al di là del confine. Alcuni di questi poveri migranti non avevano altri soldi da dare ai coyote, ai trafficanti di uomini, sono stati barbaramente uccisi, perché gran parte di questi 72 cadaveri trovati in una fossa comune, in una fattoria nel nord-est del paese, sì, erano honduregni, qualcuno cubano, qualcuno sì, salvadoregno, e quindi insomma... Roberto, che cosa salverà il Messico dai narcotrafficanti? Telegrafico, se puoi. Nessuno sa quando, innanzitutto, ma la soluzione della crisi è lontana. Ci sono stati 28.000 morti dal 2006 a oggi, quindi una vera e propria carneficina, un dramma senza confine. Certo, la questione più impellente da risolvere e da affrontare, quantomeno, è la collaborazione binazionale fra Messico e Stati Uniti per il problema della droga, quindi capire se la liberalizzazione può essere una strada oppure se può essere pensata qualche altra soluzione. Certo, qui ha ragione Calderón quando dice che senza la collaborazione degli Stati Uniti il problema delle atrocità che si commettono ogni giorno in Messico non verranno superate, e il problema della droga rimarrà aperto. Grazie. Allora, Roberto Darin, per la tua testimonianza, buona giornata e buon lavoro. What's up? Notizie dall'altro lato del mondo. Scampoli di notizie perché il tempo è poco. In Sudafrica continua lo sciopero, ve ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi, si aggiunge anche lo sciopero dei minatori. E poi ancora l'ONU lancia l'ennesimo allarme in Pakistan perché è un altro il milione di sfollati che si va ad aggiungere a quelli dei giorni precedenti. 13.58, 20 secondi, non mi resta che salutarvi, era l'ultima notizia, Nessun Luogo Lontano termina qui, vi ricordo che domani alle 8.15 potete riascoltare 3 minuti a Mogadiscio, reportage realizzato in Somalia con Ugo Borga e Matteo Fagotto, perché 3 minuti è il tempo di sopravvivenza di un bianco nella capitale somala, noi abbiamo vissuto 9 giorni lì e quello sarà il nostro racconto. Dunque, tempo scaduto, titoli di coda, un grazie va a Valeria Coffaro che in questo mese ha dato corpo con me al programma, a Fabio Cantadori che mi ha aiutato a dargli il ritmo giusto, un grazie a voi cari ascoltatori per avermi seguito e avermi dimostrato che nessun tema è troppo lontano. Io ora spengo il microfono, riprendo lo zaino, un saluto da Giampaolo Musumeci, ma ricordate, nessun luogo è lontano.